Why Smokey Joe's Cafe? Why Smokey Joe's Cafe? One day while I was eating beans at Smokey Joe's Cafe, just sitting digging all the scene at Smokey Joe's Cafe. Jerry Leiber e Mike Stoller si erano conosciuti a Los Angeles nel 1950. Sono due ragazzi ebrei con una passione comune, il rhythm and blues. L'anno dopo decidono di provar fortuna scrivendo una canzone portata al successo da Bobby Nunn and the Robins. Sembrava un gioco, ma altre due canzoni, Hound Dog di Big Mama Thornton e Kansas City di Little Willie Littlefield, si erano piazzati nelle zone alte delle classifiche. They said, man, be careful, that pig belongs to Smokey Joe. Decidono di continuare e fanno bene, perché dall'inizio dei 50 fino alla fine degli anni 60 il sodalizio metterà oltre 70 dischi in classifica per oltre 100 milioni di copie vendute. T'ha detto 100 milioni? 100 milioni. 100 milioni veri? È veri sì. Facendo di loro la coppia di autori più importante del dopoguerra. Mike Stoller è il compositore, l'anima musicale. Jerry Leiber è la meravigliosa penna capace di scrivere con notevole senso dell'umorismo perfette storie sulla società americana, vista con gli occhi di un adolescente. Per quantità, ma soprattutto per qualità, i suoi testi possono tranquillamente rivaleggiare con quelli di Chuck Berry. Nel 1953 fondano la propria casa discografica, la Sparks. Fra i pochi artisti a catalogo si distinguono i Robins, che fanno centro nel 54 con Riot in a Cell Block Number 9 e l'anno dopo con questa storia di bassi fondi intitolata Smokey Joe Cafe. Il successo del brano attira le attenzioni dell'Atlantic, consapevole del talento del duo. Gli autori firmano per la sussidiaria Echo un rivoluzionario contratto che li rendeva indipendenti e permetteva loro di poter registrare con qualunque artista in circolazione. Del gruppo dei Robins, gli unici a rimanere fedeli a Leiber & Stoller sono Bobby Nunn e Carl Gardner. Con le incorporazioni del cantante e comico Billy Guy e di Leon Hughes nasce un nuovo gruppo. Il manager, perché fosse immediato associarli al suono della West Coast, decide di battezzarli The Coasters. What's your name? Il quartetto combina i testi umoristici e divertenti di Leiber con i piacevoli arrangiamenti di Stoller. Un mix perfetto che produrrà una caterva di hit e li consacrerà come uno dei migliori gruppi vocali di sempre, sicuramente il più spassoso. Il primo single, Down in Mexico, non ottiene il giusto riconoscimento, ma il successivo è un doppio lato A che si apre con questa Youngblood, una suggestiva canzone su un ragazzo arrapato, tanto eccitante che nella sua recensione un critico musicale scrive che da un momento all'altro ti aspetti che spunti un preservativo dalla portata del disco. Il lato B è ancora meglio, con la disperata e ossessiva ricerca di un amante della sua bella, intitolata Searching. Gonna find her. I'll bring her in some good. Nel 1956, nonostante avesse giurato che non l'avrebbe toccato nemmeno con un bastone lungo 3 metri, Ed Sullivan prenota Elvis per 3 serate, per la sconcertante cifra di $50,000, l'importo più alto pagato a un artista per esibirsi in TV. Nel mese di agosto, forse per aver giurato il falso, Sullivan ha un brutto incidente automobilistico che gli impedisce di essere presente al primo show del 9 settembre, quello che batterà ogni record televisivo con oltre 60 milioni di telespettatori e verrà ricordato per aver inquadrato per buona parte della performance il re dalla cintola in su. Tender, love me long. Nelle 2 successive apparizioni ci sarà la consacrazione tanto desiderata dal colonnello Parker, quando il personaggio più potente e influente del mondo dello spettacolo definisce Elvis un bravo ragazzo. And we'll never part. In agosto iniziano le riprese del film The Reno Brothers, un melodrammone ambientato nel sud degli Stati Uniti durante la guerra civile. Il titolo viene cambiato all'ultimo per colpa di questa Love Me Tender, il nuovo singolo show di teenager di Elvis, che prima di uscire ha oltre 1 milione di prenotazioni e che ovviamente arriva numero 1. Il 26 settembre torna nella sua Tupelo dove si celebra l'Elvis Presley Day. Bello come il sole e con una fantastica camicia di velluto blu, dà 2 spettacoli. Uno di questi al Mississippi Alabama Fair, la stessa fiera dove aveva cantato quando aveva 10 anni, con la grossa differenza che a proteggere il palco stavolta ci sono 100 di membri della Guardia Nazionale. Dopo un frenetico tour in Texas, decide di prendersi una pausa e stare un po' in famiglia. Il 4 dicembre è negli studi della Sun con Perkins, Cash e Jerry Lee Lewis nel quartetto da $1,000,000. In gennaio, altro single, dove il pezzo forte è questa Too Much, che manco a dirlo, va dritta in cima alle classifiche. Too much. divenisse talmente un fenomeno nazionale che in febbraio il New York Times inventa che in Unione Sovietica vengono distribuite copie legali dei suoi dischi. L'unica forma per gli inquadrati comunisti di respirare un po' di sana libertà americana. In marzo compra Graceland, una mansione di oltre 60.000 metri che diventa la sua reggia. A confermare che lui è ancora il re, pochi giorni dopo esce un altro singolo, l'irresistibile All Shook Up. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. I'm all shook up. Possono vendere i diritti della canzone più suonata della storia per una manciata di dollari? Certo, ma solo se ti chiami Richard Berry. Nell'estate del 56, oltre a suonare con tre gruppi contemporaneamente, ogni domenica si esibisce all'Harmony Park Ballroom di Anaheim con Ricky Rigiera and the Rhythm Rockers, un gruppo latino guidato da due fratelli di origine filippina, Rick e Berry Rigiera. Nel backstage li sente suonare un ballabile con una bella introduzione. È una cover di un brano del cubano René Tuffé intitolata El Loco Cha Cha Cha. Rimane tanto colpito da quel ritmo che decide farne un pezzo. Prende un fazzoletto di carta e inizia a scrivere. Per il testo si ispira a One for My Baby, dove Frank Sinatra racconta della sua amata un barista, mentre l'idea del marinaio caraibico gli viene dall'ascolto di Havana Moon di Chuck Berry. You are my sunshine. Il brano, a nome del suo nuovo gruppo, i Pharaohs, viene nascosto nel lato B del singolo. Il lato A è questa You Are My Sunshine, che avrebbe meritato molto di più del disastro commerciale che è stata. Berry non ha un franco. La musica non gli dà da vivere. Così si trova un lavoro in quel settore. Deve immagazzinare e distruggere le copie invendute dei dischi. How much I love you, so please don't care. sente il famoso DJ di Los Angeles Hunter Hancock annunciare alla radio la sua canzone. La suona ogni ora per settimane e daje che te daje diventa un hit locale. Gasato da quel momento di popolarità, decide lasciare il lavoro e dare un seguito alla canzone con questa strepitosa Hard Love Will Travel, che non riscuote successo, ma entrerà nella storia del rock nella tracotante versione dei Sonics. Say I'm a travel for me. Nel marzo del 59 ha un disperato bisogno di soldi per sposare la sua Dorothy. Così vende i diritti di quella canzone e altre tre per $750 a Max Fairtay, proprietario della Flip Records. 14 anni dopo, i Kingsmen registrano una sgangherata versione del brano, quella definitiva, una pietra miliare del rock di fondamentale importanza. Quel ritmo semplice, fatto di tre accordi, sarà di ispirazione per la composizione di migliaia di brani, mentre il numero delle cover è praticamente incalcolabile. Ma questa è un'altra storia. Negli anni Ottanta, Richard Berry è povero in canna. Vive dell'assistenza sociale a casa della madre. Casualità vuole che la ditta di Bibilt California Cooler voglia usare la sua canzone per uno spot pubblicitario. La notizia giunge alle orecchie di Chuck Rubin, un avvocato capo di una società specializzata nel recupero dei diritti d'autore delle canzoni. Percentuale di Rubin è esorbitante, il 50%, ma le royalties ascendono a milioni di dollari. Richard Berry chiaramente accetta, meglio la metà di una fortuna che il 100% di niente. Dal 1986 recupera i tre quarti dei diritti della sua canzone, abbastanza per concedergli una vecchiaia tranquilla. Nell'83 una stazione radio di Los Alto Hill, in California, trasmette una maratona del pezzo con oltre 800 versioni, della durata di 63 ore. Well, I got money to spend, my time to wait. So let's get together, baby, let's get straight. That's me and you, baby, that's all we two can really have a ball, come on. Dal 2003, nel giorno del suo compleanno, l'11 aprile, si celebra a Tacoma un festival estivo dove si suonano solo versioni del mitico brano, concluso nella sua prima edizione con 1000 chitarre tutte all'unisono. L'hanno fatta praticamente tutti, da Otis Redding ai Kinks, dai Beach Boys ai Motorhead, dagli Stooges a Barry White, dai Flaming Groovies a Toots and the Maytals. E sicuramente, in qualche parte del mondo, in questo momento, qualcuno sta suonando Loe Loe! I sail the ship all alone. I never think I'll make it home. Louie, Louie, well, me gotta go. Louie, Louie, me gotta go. Three nights and days, me sail the sea. Me think of girl constantly. On the ship, I dream she there. I smell the rose. Concerto di John Lee Hooker a cambiargli la vita. Dopo quell'epifania aveva deciso due cose: suonare la chitarra e mettere il ritmo al centro dell'attenzione. Il suo sound, chiamato in senso dispregiativo jungle music, è stato la base per l'evoluzione del rock. Bo Diddley, oltre uno stile inconfondibile, è un pioniere anche per quanto riguarda l'immagine. Dopo un infortunio dovuto a una caduta sul palco, decide costruirsi una chitarra più maneggevole. La sua, panciuta e pesante a causa degli effetti casalinghi, andava modificata. What can I do for you? Sul modello delle Saigar Box Guitars, quelle fatte con le scatole dei sigari, progetta una chitarra rettangolare. Poi chiede a uno dei boss della Gresh di fargliene una personalizzata, la Gresh Bo Diddley, che entra in modo permanente nell'iconografia rock. Un altro modello celebre è la Jupiter Thunderbird, progettata dal Bo nel 59 con forma spaziale, e una ricoperta di pelliccia, immortalata nella copertina del disco Bo Diddley is a Lover. Inoltre, sul finire dei 50, è il primo ad avere una chitarrista donna, Peggy Jones, in arte Lady Bo, sostituita poi da Norma Jean Watford, soprannominata la Duchessa. Un pioniere in tutto. In aprile esce un altro meraviglioso singolo. Sul lato A c'è questa Hey Bo Diddley, ma la vera perla si trova girando il disco. Un brano ipnotico, scritto per una ballerina esotica che lavorava al Flame Show di Detroit. Il suo nome? Mona! Can you come out in the front? Listen to my heart go bump-de-bump. I need you, baby, if that's no lie. Love your love, I will surely die. you come out on the front. Listen to my heart go bumpy bump. Your love, I will surely die. Da quando ascolto Cioccolato Bianco, mi viene voglia di parlare romagnolo. La pida se passò, la pise un po' matot. Miracolo. Doveva per forza essere un miracolo, altrimenti non si spiegava il fatto che un bambino di 4 anni suonasse gli accordi di questo classico del gospel, Silent Night, al pianoforte senza averlo mai suonato prima. Era opera divina. La famiglia, estremamente religiosa, pensava fosse una specie di compensazione per la perdita del loro figlioletto maggiore Elmo, ucciso da un ubriaco al volante. Ferriday, in Louisiana, è uno dei tanti centri abitati della cosiddetta Bible Belt, una linea immaginaria che parte dal Texas e arriva fino alla Carolina del Nord e racchiude gli stati più conservatori e religiosi degli Stati Uniti. La famiglia, come quella di Elvis, fa parte dell'Assemblea di Dio, una setta fondamentalista i cui fedeli devono seguire alla lettera i precetti biblici. Non possono né bere né fumare, ma soprattutto non possono ascoltare la musica del diavolo, né tantomeno frequentare quei locali dove la suonano, pieni di ubriaconi che hanno perso irrimediabilmente la rettitudine e di donne di malaffare, condannate sicuramente a bruciare all'inferno. L'infanzia la trascorre con i cugini Mike Gilley, poi musicista country, e Jimmy Swaggart, che da quando viene a sapere che la parola di Dio si può diffondere attraverso la televisione, diventerà il telepredicatore più famoso d'America. Spesso i tre si ritrovano al piano dello zio, quello benestante, a suonare gli inni della chiesa. Visto il talento soprannaturale, quando ha 8 anni, il padre ipoteca la casa per comprargli un piano Stark Upright. Il piccolo è l'unica speranza di uscire dalla miseria e lo strumento la sola maniera di tenerlo fuori dai guai. Che non sia un buon cristiano lo si capisce fin dall'adolescenza, quando scappa di casa per andare nei juke joint ad ascoltare, nascosto sotto i tavoli, quella musica luciferina che tanto gli piace. Per raddrizzarlo un po', la famiglia lo iscrive a una rigidissima scuola in Texas, la Southwestern Bible Institute. La madre voleva diventasse un buon predicatore, ma viene espulso per questa interpretazione di My God is Real con ritmo boogie boogie durante una funzione. Accertato che la vita da pastore non fa per lui, si mette a suonare nei locali di Natchez, un paesotto sul fiume sacro del blues. A 16 anni spera potersi salvare dall'inferno cambiando vita. Decide di mettere la testa a posto e sposa la figlia di un predicatore. La vita coniugale dura quanto un fiammifero. L'attrazione per il peccato è irresistibile. Ormai, ha deciso, lascia la novella moglie per dedicarsi a suonare il piano alla Henny's Big House di Faraday. L'anno dopo, minacciato con una pistola dai fratelli di una ragazza che aveva messo incinta, la sposa senza essersi divorziato dalla prima moglie. Bigamo, a soli 17 anni. Un record. La seconda moglie lo convince a lasciare la musica, cercarsi un lavoro onesto e fare il bravo papà con la nascita del loro primo figlio. Ci prova e si mette a vendere macchine da cucire a domicilio, ma ormai il demonio si è impossessato di lui, così con la vile scusa che il secondo figlio non gli assomiglia, abbandona anche la seconda sposa. Prova a sfondare nel mondo della musica. Nel 1954 registra due canzoni niente di che in una radio della Louisiana. Poi va a Nashville per cercare un contratto. Suona nei locali della città per farci notare, ma quando è ora di incidere, i dirigenti della casa discografica si rifiutano e gli suggeriscono di cambiare il piano per la chitarra, che più o meno equivale a dire a Jimi Hendrix di smetterla con le sei corde per dedicarsi alla batteria. Anche il Louisiana Air Ride non lo ritiene sufficientemente valido per salire sul palco, ma lui non si abbatte. Quando viene a sapere che l'etichetta Sun di Memphis è la responsabile del successo di Elvis e altri artisti bianchi, decide di autofinanziarsi il viaggio vendendo 33 dozzine di uova. Si presenta dicendo che suona il piano come Chet Atkins la chitarra. Di fronte a un'autostima così alta, Cowboy Clement gli dà un'opportunità e capisce che lo sbruffone è pure modesto. La miccia s'accende, diventa session man per l'etichetta e registra anche un singolo, questa Crazy Arms, che non lascia ancora presagire la stoffa del ragazzo. Bisogna solo aspettare il singolo successivo perché faccia il botto. 21 drums on a whole bass horn and somebody beating on a ding dong. Come on over, baby. Whole lot of shaking going on. Come on over, baby. Baby, you can't go wrong. Quel pezzo, da tempo nel repertorio delle sue esibizioni dal vivo, era stato registrato originariamente nel 1955 dalla cantante afroamericana Big Maybelle, con scarso successo. La sua funambolica versione di Whole Lotta Shaking Going On mette sotto i riflettori della storia lo sconfinato talento di Jerry Lee Lewis. Come on over, baby, whole lot of shaking going on. Yes, I say, come on over, baby, baby, you can't go wrong. We ain't faking, whole lot of shaking going on. Well, I say, come on over, baby, we got chicken in the corner. I said shake, baby, shake. I said shake it, baby, shake it. I said shake, baby, shake. Come on over. Oh, a lot of shaking going on. Oh, let's go. Shake it one time for me. You heard a hussy come over, baby. Oh, Lord, shake it going on. Now let's get real low one time now. Shake, baby, shake. All you gotta do, honey, is kind of stand in one spot. Wiggle around just a little bit. And that's when you got some. Yeah. Now let's go one time. Shake it, baby. Come on, baby, shake, baby, shake it. Come on, love. Oh, lot of shaking going on. Tell you how much I loved you. Troppo bianco per piacere ai neri e con un suono troppo nero per vendere ai bianchi. Questa è la sintesi della carriera di Delmar Allen Hawkins. Era stato cresciuto dai nonni in una piantagione della Louisiana assieme al fratellino Jerry, anche lui poi musicista. Il padre aveva abbandonato la famiglia per suonare musica e libilli in forma itinerante. La madre lavorava e non aveva certo tempo per crescere i due figli. Le sue prime e maggiori influenze sono le canzoni della piantagione, le work song nei campi di cotone, il blues nei rari momenti di riposo. Grazie al nonno, un Marshall federale, scopre la musica dal vivo nei locali notturni. È onnivoro, ma se può scegliere fra Hank Williams e Howlin' Wolf, preferisce di gran lunga il secondo. A 7 anni vende i giornali per comprarsi la sua prima chitarra. La scuola non fa per lui e la abbandona per suonare con il chitarrista Sonny Jones, fratello della vedova di Hank Williams. Ma non è musica country quella che vuole suonare. Lui, a Lay Ride, non sta sul palco, ma fuori, intascando 50 cents per ogni macchina parcheggiata nell'apposito recinto gratuito. La fame è troppo brutta però. Così il 16enne falsifica i documenti per garantirsi il cibo quotidiano e si arruola. Finita la naia, si trasferisce a Shreveport, nella parte nord della città, in una baracca con solo un lettino pieghevole, un giradischi e un migliaio di dischi blues a 78 giri. Delmar è assiduo cliente dello Stan Record Shop, il punto di riferimento musicale di tutta la Louisiana. La sua conoscenza musicale è enciclopedica, così quando chiede di essere assunto, il padrone Stan Lewis accetta immediatamente. In breve tempo diventa un mito. È sufficiente canticchiargli il frammento di una canzone per sapere titolo e autore. Un autentico Shazam umano. Nel frequentatissimo negozio di dischi diventa amico di vari clienti musicisti, soprattutto di B.B. King, ma è grazie a Stan Lewis che entra nel mondo della musica suonata. Il proprietario del negozio è non solo un talent scout per la Chess, della quale è anche uno dei migliori clienti, ma anche produttore. Il suo primo disco era stato quel capolavoro di Lowell Fulson, intitolato Reconsider Baby. Lewis è deciso a dare un'opportunità ad Elman e per l'occasione affitta per $25 gli studi di una radio di Shreveport per poter effettuare delle registrazioni. Il singolo che ne viene fuori non è memorabile, anche se questa See You Soon Baboon avrebbe meritato miglior fortuna. I'm glad I found out soon. Quando Lewis chiama Leonard Chess per la stampa del disco, il polacco invece di scrivere Del, D-E-L, abbreviativo di Delmar, scrive erroneamente Dale, il nome con il quale entra nella storia. Assieme al batterista A.J. Tuminello e al quindicenne prodigio della chitarra James Burton, mette su un trio che si esibisce nella zona nord della città, perfezionando un pezzo che avevano registrato alla radio come demo. La canzone era stata scritta da Dave Hawkins, ma nei crediti c'è ovviamente Stan Lewis e una certa Eleanor Broadwater, la moglie del DJ Gene Nobles, a quali i fratelli Chess dovevano dei soldi, mentre James Burton, inventore del riff e dell'assolo, non viene neanche citato. Hawkins sostiene averla intitolata così per un verso ululato da Howlin' Wolf durante un concerto, mentre Lewis è sicuro di averlo fornito a lui il titolo, in quanto il nome di sua figlia è anche quello di Leonard Chess, cosa che avrebbe favorito la pubblicazione del disco. Un'altra teoria sostiene che derivi da un passo dell'Lindy Hop, il ballo popolarissimo negli anni 30 e 40, chiamato come la canzone. Stand no cheating, my baby. Well, my baby, don't stand no cheating, my baby. Well, my baby, don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping. My baby, true little baby, she my baby. Il brano prende ispirazione da Baby Please Don't Go di Muddy Waters, mischiato con un riff pungente alla Howlin' Wolf. Un sound mai sentito prima, tantomeno da un bianco. Un sound che prenderà il nome di Swamp Rock, il rock del pantano. I Chess, che pensavano Hawkins fosse afroamericano, tengono il disco nel cassetto per 3 mesi, finché Lewis manda una copia a Jerry Wexler dell'Atlantic. Saputo dell'interesse dei rivali, viene pubblicata 5 giorni dopo. Il successo però non arriva. Bene nella classifica Rhythm and Blues, dove arriva al 7° posto, ma in quella pop raggiunge solo il numero 27, mentre in quella country manco c'entra, a conferma del fatto che si considerasse più un bluesman che un artista country. Dopo il single, Burton lascia la band diventando chitarrista ufficiale di Ricky Nelson e di tantissimi altri artisti come Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Elvis e Gram Parsons. Il sostituto di Burton alla chitarra è un altro prodigio dello strumento, Roy Buchanan, protagonista in questa straordinaria versione di My Babe. Il successo non arriva nonostante l'alta qualità. Così si dà alla TV con un suo seguitissimo show e diventa produttore discografico. Torna alla ribalta verso la fine dei 60 grazie a una fedelissima versione della Creedence Clearwater Revival, a conferma del fatto che Dale Hawkins è l'inventore della swamp rock con questa Suzy Q. talk. I like the way you walk. I like the way you talk, my Susie. Annie's been working on a midnight shift. If Annie puts a hair up on her head, paints him lips a bright, bright red, wears that dress that fits real tight, starts staying out till the middle of the night, says that a friend give her a lift. Well, Annie's been working on a midnight shift. I rapporti con la Decca sono ai minimi termini. Non avevano capito nulla del potenziale che avevano fra le mani. Gli facevano suonare ingenue ballate o brani troppo country invece di lasciarlo libero di sperimentare. Anche l'infallibile Owen Bradley non l'aveva capito, e neanche uno dei massimi dirigenti dell'etichetta, che lo giudica addirittura un incapace. Il single Modern On One con You Are My Own Desire sul lato B ha scarsa promozione e, a dire il vero, non è neanche gran cosa. Infatti, vende pochissimo. Buddy rescinde il contratto con la Decca e torna nella sua Lubbock, dove mette su un gruppo, The Crickets, con il batterista Jerry Ellison, il chitarrista Nicky Sullivan e Joe Muldin al basso. Alla fine del 1956 si dirigono a Clovis, nel New Mexico, nel moderno studio di registrazione di Norman Petty. Il proprietario, che diventa anche manager del gruppo, lascia carta bianca a Buddy e non fa una piega sulla scelta del single. Ollie Ellison, l'amico batterista, erano grandi amanti del cinema. Nel maggio del 1956 era uscito The Searchers, un westernone di John Ford, dove l'eroe John Wayne deve strappare la nipote Natalie Wood dalle grinfie dei cattivissimi Comanches. Nel film, John Wayne ripete spesso l'espressione "There'll be the day". Così, quando escono dal cinema, iniziano a scherzare con la frase. Buddy stava rinnovando il suo look. Un bell'aspetto era importante per sfondare nel mondo della musica. Si era fatto sistemare i denti e da poco aveva messo da parte gli spessi occhialoni per delle moderne lenti a contatto. Drunk man, streetcar, foot slip, there you are, well, I'm looking for someone. Gli davano un gran fastidio, però. Gli bruciavano e gli lacrimavano gli occhi. Così, quella sera dopo il film, decide di togliersele. Guardando lo sfocato Ellison, gli dice: non mi libererò mai dei maledetti occhiali. Verrà il giorno, risponde Ellison imitando John Wayne. Già, risponde Buddy. That'll be the day. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your loving and your dirty loving, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby. Tell me maybe that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Heart. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. That'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Dreamed I was arrested, charged with a crime. You've got to plead innocent, 'cause darling you're not mine. Oh, why? Nascere omosessuale negli anni 50 nel sud degli States e per giunta in una famiglia molto religiosa non solo era difficile, ma diventava un male che andava estirpato perché frutto del demonio. La gamba destra più corta non faceva che accentuare la femminilità della sua camminata. Inoltre, preferiva giocare con le ragazze, attirandosi le ire dei maschietti. Era oggetto di scherno di chiunque. Gli insulti omofobi erano all'ordine del giorno. Il padre lo curava a forza di botte. La madre, invece, per farlo guarire, lo iscrive a una chiesa battista, dove forma il suo primo gruppo, i Teeny Toys Quartet. Voleva diventare un cantante gospel, come il suo idolo Brother Joe May, the Thunderbolt of the Midwest, ma il fervore religioso dura poco. Abbandona la scuola per unirsi a uno spettacolo itinerante dove conosce il mondo delle spogliarelliste, dei comici dalle battute volgari e delle drag queen. Da lì in poi, il destino metterà sulla sua strada tipi stravaganti come il dottor Mobilio, Billy Wright e Escherita. Da ognuno saprà assorbire qualcosa per perfezionare il suo personaggio e diventare la perfetta incarnazione del rock and roll. In marzo è sul mercato Here's Little Richard, album seminale che contiene tutti i suoi successi, compreso il nuovo single che esce in maggio, l'incandescente Jenny Jenny. Jenny Jenny Jenny, won't you come along with me? Jenny Jenny, Jenny Jenny, Jenny Jenny Jenny, won't you come along with me? Jenny Jenny, Jenny Jenny, you know that I love, we can live so happily. Jenny Jenny, Jenny Jenny, spin it, spin it, spin, spin it like a spinning top, spin it, spin, spin it, spin, spin it, spin it, spin, spin it like a spinning top, spin it, spin, spin it, spin, a crazy little part, you're all feels real and rock. Jenny Jen, Jenny Jen, Jenny Jenny Jen, you know that you my girl. Jenny Jen, Jenny Jen, Jenny Jenny Jen, I know that you my girl. Jenny Jen, Jenny Jen, you know that I need, I buy you diamond rings and pearls. Jenny Jen, won't you come along with me, Jenny Jen, Jenny Jen, you know that I love when we can live so happily. Jenny Jen, Jenny Jen, spin it, spin it, spin, spin it like a spinning top, spin it, spin, spin it, spin it, spin it, spin, spin it like a spinning top, spin it, spin, spin it, spin, my crazy little part, the bottle feels real and rock. Jenny Jen, Jenny Jen, Jenny Jenny Jen, you know that you my girl. Oh, Jenny, Jenny, Jenny, you know that too, my girl, Jenny, Jenny, Jenny, you know that I need, I buy you diamond rings and e per stavolta è tutto, gente. Nel ricordarvi che la vostra felicità è anche la mia, vi do appuntamento al prossimo episodio di Cioccolato Bianco, la storia del rock, quella vera.